Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera e benvenuti a Smart City. Inquinano, sono tantissimi e non così facili da smaltire. Sono i mozziconi di sigaretta che, insomma, nonostante divieti e multe ormai salate almeno sulla carta, insomma, per quei pochi che vengono colti sul fatto nell'atto di buttarli a terra, beh, questi mozziconi continuano a rappresentare una seria minaccia ambientale. Di necessità virtù, però, dice il proverbio, ed è forse questa davvero la migliore chiave di lettura per riassumere in estrema sintesi l'obiettivo del progetto di cui adesso vi andiamo a parlare, il progetto Focus, in corso nel comune di Capannori, patria delle lavorazioni della carta da sempre sulla breccia nelle politiche per il riciclo, e che vede impegnati anche due laboratori, il Centro Avanzi dell'Università di Pisa e l'Istituto Ecosistemi Terrestri del CNR. Il progetto si fonda su un piccolo finanziamento, 140.000 euro, proveniente per metà dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e per l'altra metà dai soggetti appunto direttamente impegnati e interessati. Allora, parliamo di che cosa? Di trasformare i filtri usati dai mozziconi di sigaretta in un substrato inerte per colture idroponiche. E allora, per farci spiegare un po' meglio il tutto, andiamo da Lorenzo Guglielminetti, che è professore del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Pisa. Buonasera. Buonasera. Allora, Guglielminetti, per prima cosa ci ricordi un po' l'entità del problema? Quanti sono questi mozziconi che tendenzialmente molto spesso disperdiamo nell'ambiente e che tipo di danni fanno? Beh, dunque, intanto due numeri, direi. Il primo è quello relativo ai mozziconi buttati per terra a Roma. Ogni giorno a Roma 18 milioni di mozziconi di sigaretta vengono buttati in terra. Nel mondo si stima che ogni giorno vengano buttati per terra circa 10 miliardi di mozziconi di sigaretta, che vuol dire migliaia di miliardi ogni anno. Certo. Questo è l'entità del problema, un'entità molto significativa. Tra l'altro rappresentano circa il 30-40% dei rifiuti solidi all'interno delle nostre città, delle aree verdi delle nostre città. Quindi, insomma, poi sono molto significativi. Sono duraturi, ci mettono almeno una decina d'anni prima di sparire, e poi appaiono allettanti, credo, a diversi animali, no? Questo è uno dei problemi più grossi, perché possono sembrare cibo specialmente per molti uccelli, che poi si intossicano evidentemente mangiando questo tipo di rifiuto, e fino a provocarne addirittura la morte. Quindi sono molto molto pericolosi, più da un punto di vista fisico, almeno la parte del filtro vero e proprio, che da un punto di vista chimico, che è invece rappresentato da ciò di cui è impregnato il filtro vero e proprio. Ecco, perché ci ricordi di che cosa è fatto un filtro per sigaretta? È un filtro da sigaretta, è fatto essenzialmente all'interno di acetato di cellulosa, che poi è circondato da carta. Certo. E poi ovviamente c'è il tabacco che dovrà essere bruciato durante che il rimane consumo. Lì. Ecco, quindi il problema è che questo acetato di cellulosa, quindi la spugnetta, chiamiamola così, trattiene tutta una serie di sostanze che sono tossiche. Ecco, io e lei prima cercavamo di capire se il rifiuto fosse pericoloso, fosse un rifiuto speciale, fosse un rifiuto tradizionale. Pare che non sia così scontata la classificazione, ma tossico, abbiamo detto, lo è di sicuro. E allora veniamo al progetto. Qual è di preciso il vostro obiettivo e come avete in mente di raggiungerlo? Ma l'obiettivo è, partendo dai mozziconi di sigaretta raccolti per le strade o in appositi raccoglitori, l'obiettivo è quello di trasformarli attraverso un procedimento termico, fisico, quindi una bollitura essenzialmente, trasformarli e separarli nella parte di vera e propria filtro e nella parte di prodotti tossici, che a quel punto saranno in un liquido, in una soluzione liquida. La parte solida verrà quindi utilizzata dopo apposita cardatura, che assomiglia un po' alla cardatura della lana, per produrre dei substrati inerti atti alla coltivazione di specie vegetale in idroponica. Dei fiocchi praticamente di questo materiale acetato di cellulosa. Esattamente, che diventa inerte, quando pulito diventa inerte, e quindi un perfetto substrato, come altri già ce ne sono in commercio, certo, un perfetto substrato per le colture idroponiche. E questo quindi è l'obiettivo primario. Ovviamente rimane il problema della soluzione liquida, che contiene a questo punto tutte le molecole tossiche. per risolvere questo problema abbiamo pensato di ricorrere all'aiuto di microalghe monocellulari, ne esistono di varie specie di acqua dolce e di acqua salata, abbiamo già individuato alcune che lavorano bene, in grado di digerire di fatto questo liquido inquinante, di trasformarlo in acqua pulita e contestualmente di creare una biomassa algale di buona consistenza che possa poi essere trasformata in biodiesel e quindi utilizzata nel ciclo normale di uso dei carburanti. Ed ecco che si appunto chiude il cerchio. Su che tipo di piante state ragionando, prima che qualcuno venga ad accusarvi di produrre pomodori alla nicotina o qualcosa del genere? No, assolutamente no, niente di commestibile. Stiamo ragionando su piante, sul verde urbano essenzialmente, certo. E l'idea è di utilizzare città per città, in questo caso in Capannori, visto che stiamo iniziando lì, utilizzare specie autoctone che possano quindi poi ben reinserirsi nelle aree urbane del comune, selezionare quelle che in questo modo di coltivazione possono crescere meglio e quindi essenzialmente ornamentali autoctone. Grazie professor Guglielminetti, in bocca al lupo. Grazie a lei, buona serata. Brevemente, prima di lasciarci, vale la pena di ricordare che ci sono altri tentativi di utilizzare questi mozziconi di sigaretta. A Roma, per esempio, è appena stato concluso un lavoro di ricerca per trasformare almeno una parte dei filtri in montature per occhiali. Questa è un'iniziativa di Azero CO2, che è una società nata da Legambiente. E poi, insomma, esistono vari brevetti. Per esempio, c'è chi in Canada ha messo a punto una procedura per inglobarli all'interno di mattoni, creando così dei mattoni altamente porosi e quindi anche isolanti. Da Smart City per questa sera è tutto, appuntamento a domani. Ricordate, per chi non riuscisse a seguirci in diretta, che la trasmissione gode di un ottimo podcast. A voi tutti buona serata.